Metto il tubo, quello che do, dove è adesso, lo metto di lì, dietro la palapola e salgo 2 metri di sopra il tetto. Basta e avanti. A cosa ci metti di antenna? Quella che tu ci lascio. Non ne metti altro? Vabbè, quando ce l'abbiamo 27 lei ci metto quella. Se vuoi vedere avanti ci lascio quella che c'ho. Molto poco c'ho sul, quindi mi devo mangiare. Vabbè, già stai finendo lo stesso. E la mia 27enne chi l'ha prende a Sassari? La GBC ce l'ha. Si chiama c'è nome stavo, c'ha. Comunque è una 50, vabbè, tipo quella che c'è accorto, quello di Ussi. Non mi ricordo il nome adesso. Quello di Ussi è mezz'onda. È uguale identica, solo che quella che è. E 5 ottavi è un po' più lunga e c'è 3 radiali. Sì, sì, sì, perché mi ha detto che c'erano 2 T più, ma che non ce l'avevo, non dovevo arrivare io un altro. Esatto, sì. Dunque adesso che stavo pensando, chi ci ha detto che a Arcadia gli avevano 300 e 8 milioni, l'ho visto 276, mi pare. Chi lo sa macchina? Sì, l'8001 della Milan, su internet 276, a casa lo danno 300, la GBC 350, cazzo di cari voi. Io l'8001 ce l'ho buttato a Sassari, in un laboratorio, 50 euro lo stavo dando, e lui via. Io vuoi solo sistemato e basta, ma non ne ho fatto altro. E poi come si dice, sa cosa va? Meglio avere 50 euro, per 50 euro per dire per sistemarlo, sono 100, e che era parecchio nuovo, poi gli metti le modifiche, fai quello che vuoi, lo vendi, o no? No, preferisco una cosa nuova io. Perché se ti compri un con le 4.000 cosa succede? Gli togli l'eco che c'ha e ci metti l'eco quello famoso, ed è uguale identico all'8001, sale uguale. Li metti dopo il muratore, finali più di grossi, quello che è, che vale 500 euro. Appunto, vedi, c'ha ragione Domenico, 500 euro, ma ce la faccio per dare il fratello della Mondezza. Fa bene Domenico, si è comprato una parecchia di cosa di meno. 150 euro e fare le stesse cose, c'è ragione Domenico, la verità. Giallo che era giallo? Boh, Lello, sì, così. Allora, vedi dove si sente un mito, un mito che si è fuori. Aspetta un secondo qua, lì, a vedere se sono gli altri cani. Qua sono qua, Domenico. E cosa devi fare per il VAT? È esagerato la tecnologia, cosa ne fai? È sbagliato. Con 500 euro ti prende un bel cavolo che va da 50 kg a 60 mega, se tipo sei 80 e ti rimane anche il resto per comprare le metatone. Cosa ti rimane una cosa del genere? Non te ne fai proprio niente, la verità. Se ho con l'apparecchio, se lo piazza come si deve, fa tutto. O per dire di quei miti da 500 euro, ne ha già 200 e ti prendi un po' di banda, e c'è 104 di uscita, fa da tutto, fa, come si posso dire, fa tutto. Sono piatti in macchina, in casa dove vuoi, e parlo con chiunque. Dipende dalla passione, il discorso è quello, dipende dalla passione. Sono dei piedi quelli che ho tagliato, non ti piace in casa, no, che ti portano vicino di casa, è come avere un muro di forattini, che ti bussano a fianco, ti senti la persona a fianco, senti, mamma mia, meglio niente, comunque. Ma la gente è abituata a comprare dopo il muratore, c'è l'epoca di porcheria e mezzo, ma sono passioni quelle, cosa me ne frega a me. Ma Domenico, dove? Ciao Domenico! Ho con le gallerie. Domenichino! La sigaretta mi manca quando posso la notte, ma è giusto. che abbiamo passato la nottata. Però sai come pesco? Col segnalino metto le cale in terra, metto il cucchiaino del caffè con manico girato, lo metto nell'insentita, a domani a bling! È positivo. Ecco, quella lì è la mia pesca, l'aspetti. Allora, se prendi per i bei pesci, è inutile che stai a pescare pesciolini. Io ho un amico, lo stesso che pesca come te, si è fatto due acquari in casa, i pesci belli, quelli più colorati, li mette nell'acquario. E infatti ha detto, che stai già fatto l'acquario in casa? Si è preso un acquario a Portobello, 100 euro, l'ha pagato, 350 litri. Saccasino di nomina Milanese, ma lo sai proprio. Cosa hai detto? Gli amici frisse è trovato. Qua è una rotonda, posto in blocco, una rotonda. Dove? Alla quadra. Cava, cava. E dove sono loro? Sopra la rotonda? No, no, hanno passato la macchina lì, all'ingresso della, di Testoni, hanno passato. E sono nascosti, capito? Perché lì c'è il giro di prostituzione, di gozzi, sono sempre appostati in chi? Ti fottono, sono sempre dove ti fottono. Io oramai, c'ho il piede tarato, sono guardati sempre in piano, sto più correndo in macchina, prima dico la verità che camminavo, quando ero un ragazzo ero un po' pazzo. Oggi bisogna stare attenti, ma molto. Lo sai cos'è? Quando diventi più grande c'è più testa, prima mi mettevo gli ACDC e via. Musica, rock, tutto volume e via, si partiva. Ce lo so. Vabbè dai che sono arrivato qua. Scendiamo da un po' e sgancio, riaggancio. Ma questo ecco che c'hai, che cos'hai? Non è ecco cosa? Il maio, Il maio. Ma questo è l'ecco dell'apparecchio. Positivo. Ecco, così il regolatore mi piace di più. Questo è così originale, così capito, è un apparato degli anni 80, capito? Era Lugulos il Maio. L'ho anche avuto. L'SM200 hai avuto? No, io del Maio l'ho avuto il portatile. Che era completamente in ferro, aveva 80 canali, 40 sopra e 40 sotto, e praticamente era un apparato che io all'albero arrivavo a Santiago 9.5 con l'antenna azzurra, hai capito? Quello sì, no, sono contentissimo, lo ricordo come si chiama, però. E vabbè, il colte. Ma il colte l'8001, lo stesso ce l'ho, l'8000. Però c'ha il vento colte quello lì. Gappa. Caffè Mauro, veglia Caffè Mauro.